andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Silvio forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto tu ci piaci, per questo sei il pensiero che ci guiderà. Il sogno riparte da qua, diventa realtà, perché Silvio, Silvio, forever sarà. Mentre l'Europa dice chiaramente che Silvio Berlusconi, il cavaliere, non si può candidare, mentre arriverà fra poco la sentenza definitiva sull'interdizione dei pubblici uffici, c'è chi resiste sul fronte. Primo fra tutti, il nostro magnifico Renato Brunetta. La sinistra ha paura di Berlusconi. Sentitelo, eh? Non capisco tanto strepito a sinistra, evidentemente hanno paura di Berlusconi, perché in democrazia gli avversari ovviamente si candidano e anzi un buon fair play dovrebbe dire che si candidi Berlusconi. Vogliono vincere facile come la pubblicità? Dimentica un piccolo particolare, piccolissimo particolare, il Sor Brunetta, no Parenzo? Cosa dimentica? Che ci sono una sentenzina di condanna. Ma no, una serie di sentenze. Dove sei che non si sente una mazza? Sono alla sede di Radio 24. Ah sì, boh. Vabbè. Vuoi ti chiamo dal fisso? No, va bene. Guarda, solo per farti capire. Marina, buonasera, dove sono io ora? Radio 24 Roma. Ecco, era una minolina. Sta giusto per testimoniare. No, è una minolis girl. Qualificarsi? Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore Roma. Grazie. E da qui è tutto, a voi studio. Ah, ma non sei in studio, sei collegato col telefono fisso, ho capito. Perché c'è il signor Minoli che sta finendo una registrazione. Ah, bene, ho capito. Brunetta, che dice ci vuole una legge retroattiva che permetta a Berlusconi di candidarsi. Vabbè, va, e dai. Silvio forever sarà Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà. Arriva. È un diritto fondamentale stabilito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non è possibile impedire a Berlusconi questa candidatura sulla base di una legge italiana applicata retroattivamente. Non passerà. C'è un giudice a Berlino, anzi a Bruxelles. Vabbè, ma ne vogliamo parlare della Biancofiore che oggi ha detto che se Berlinguer, a Klaus Davi, se Berlinguer fosse vivo avrebbe dato la grazia a Berlusconi, Berlinguer, cioè intanto forse ha confuso Togliatti, che fu ministro della giustizia dopo no, non ha confuso mondiale. Nessuno, perché la domanda è diretta. Berlinguer avrebbe dato la grazia, ma sicuramente avrebbe dato la grazia a Berlinguer. Ma poi cosa c'entra Berlinguer? No, ma non sa neanche chi è, non sa chi è. Un Berlinguer moderno oggi firmerebbe la grazia? Secondo me assolutamente sì, quelli erano leader illuminati, erano leader che sapevano guardare avanti, erano leader colti. Assolutamente sì, erano leader illuminati, ovviamente come nel caso di Parenzo, anche le interviste di Klaus Davi non si capisce una sega. Esatto, volevo dirti proprio questo, che è un format, l'audio di Davi è quasi peggio del mio, si può dire questo? Silvio Fidel ho visto ieri sera, anzi non ho visto, mi hanno riferito di un tuo scontro formidabile con Buonanno, col tuo amico Good Ass All. Mi ha assalito praticamente, mi ha quasi minacciato fisicamente. Manco i telefoni fissi se sentono, manco i telefoni fissi mandate a fare in culo, va. Buonanno contro Parenzo, uno, dai. In Inghilterra, è una buffonata. In Inghilterra il governo inglese in 5 minuti ha mandato a casa 500.000 dipendenti pubblici. Ma forse per me, io vorrei pubblici. Uno tipo Putin in Italia, ma per ecco cambiare tutto. Ecco la stupidaggine. Non è vero, mezzanotte in questo paese allora, si cambia, mando delle stangate, chi non vuol capirlo. Ma di cosa ti fai tu? Ma che cosa ti fai? Ma che cosa dici tu? Ma cosa c'entra Putin? Ma per dire che ci vuole. Hai detto la stupidaggine di mezzanotte. Non è vero, la stupidaggine è parecchio, la dici tu. Questo paese con tanta gente Putin. Che blatera, sentiamo siamo arrivati dopo 30 anni a questa situazione. Ma glielo spieghi lei questo qua. Il governo inglese stava dicendo. Ma cos'è che diceva Buonanno che ci vuole Putin? Non ho capito. Ci vorrebbe, lui è un figlio di Putin. Nel senso che lui dice che ci vorrebbe un Putin anche in Italia, con gli stessi poteri, con lo stesso carisma. Beh, ma non ha tutti i torti, eh. Sentiamo ancora Somaro, che ti dà del Somaro, Buonanno. No, io gli do del Somaro. No, tu, vabbè, è uguale, dai, sempre Somari siete. Il governo inglese, Somaro, ascolta. Il governo Somaro lo dice un altro. Il governo inglese, hai capito che Somaro non me lo dice. Sei Somaro. No, Somaro lo dice. Mi devi parlare. Mi devi far finire di parlare. Stasera, sei troppo agitato. Il governo inglese, ascoltami. Somaro lo dice un altro e chiedi scusa. Allora ti chiedo scusa. Meno male. Però devi sapere ascoltare. Hai pure chiesto scusa, ma non ti vergogni. Hai chiesto anche scusa. Prima gli dai del somaro e poi dice no, scusami se ti ho dato del somaro. Ma smettila. Ma sei un cagasotto. No, io non sono maleducato. Ma sei un cagasotto. Ma gli dai del somaro, punto, combatti, no. Invece no, scusa se ti ho dato del somaro un secondo dopo. E dai, su. Quando si combatte. Gli hai dato del somaro significa che secondo te è un somaro. Prendi la responsabilità. Ma vai a interrompermi. Dopodiché se uno si offende io chiedo scusa con l'educazione. Ma sì, vabbè, se si offende. Prima gli dai del somaro, dopodiché se si offende, certo che si offende. Somaro perché con vabbè, somaro sentiamo non ancora. È un'offesa grave. Sentiamo ancora questa battaglia tra somari, va. In Italia questo non si può fare, quindi è inutile che dici ci vorrebbe Putin. Sì, perché certo. È una stupidaggine. Non è vero. Stupidaggini non è vero, perché bisogna avere gente con le palle, non con dirigenti. Allora vedi che sei somaro, vedi che illudi la gente. Ma perché la illudi, ma perché se dici ci vorrebbe Putin. Ma adesso me l'hai detto un'altra volta. Perché cretino, illudi la gente, illudi le persone, io, guarda, capito? Sentivo... Ci vorrebbe sì, Putin, ma che deficiente. Cosa vuol dire ci vorrebbe Putin? Ma io devo fare. Ma sei un trontondino che fai felici topi. Ma uno nella vita, no? Ma studia, ascolta. Ma uno può dire ci vorrebbe Putin. Ma uno nella vita. Ma perché? Oh! Questo è il mitologico del debbio che vi riprende a tutte e due. Però c'è stato anche un Landini contro Santanchè, eh? Con me non alza il ditino, se lo metta da un'altra parte la Santa. Io le dico che in questo paese certe forme di lavoro precario che i suoi governi hanno Guardi, fatto con quel ditino hanno lì da le cambiare. Dico lei così ma dai suoi lavoratori che forse le io parla io non ho dei miei lavoratori così. Io rispetto lei con tutto me ha no. Un rispetto diverso ma certo, perché il ditino ma guardi, se lo le mette sto dicendo no proseguo perché siccome lei sta dicendo perché che se lei il sindacato così, avrebbe sbagliato i lavoratori tutto, che permetto, credono in lei guardi i lavoratori li rispetto infatti io li ho incontrati li rispetto forse più di lei sapesse cosa hanno detto di lei ma non mi interessa ma ce n'è tanto ma il mondo che la parte col sorriso sulle labbra io sono no, molto, sono molto tranquillo il ditino se lo metta da un'altra parte dice la santa vabbè caro Parenzo abbiamo qui il presidente onorario dell'Arci Gay Franco Grillini grande ritorno alla Zanzara buonasera buonasera a voi dove si trova che la sento una voce tremenda dove si trova? Davanti al mio computer. Bene, senta Grillini, ma la vicenda Mussolini cosa le fa venire in mente? Perché lei ha detto una cosa, mezza Italia. Com'è quella cosa? Me la ripeta? Mezza Italia? All'intervista su Affari Italiani sì. Ha goduto mezza Italia. Sì, cioè conferma? Certo che lo confermo. Cioè secondo lei mezza Italia? Mezza Italia ha goduto per la vicenda Mussolini perché devo dire che io non sono tra quelli che hanno goduto perché non si gode mai delle disgrazie degli altri ma ha goduto Mezza Italia perché lei ha fatto la moralista sulle famiglie degli altri, sul comportamento degli altri. Poi quando gli è capitato un guaio in casa si è trovato di fronte ad una situazione inedita, evidentemente. Cioè, quindi, come fa lei a sapere, come fa lei a sapere, a parte che lei è in viva voce, mi tolgo la viva voce, sennò vengo là con le do una cornetta in testa. No, no, non sono in viva voce. Boh, allora che ne so, vabbè. Comunque, Mezza Italia ha goduto, secondo lei? Mezza Italia, quando ha saputo della notizia del marito della Mussolini che è andato con le baby prostitute, ha goduto? Secondo me Mezza Italia sì, perché no, quando si fa i moralisti, cioè sì, quelli che fanno i moralisti, quelli che passano la loro vita a dire tu non vai bene, tu non devi fare questa cosa. Per esempio io mi ricordo una trasmissione, mi ricordo perfettamente una trasmissione, sì, da film, eravamo io, lei e la Concia e altri, sì, dove lei diceva avere un figlio gay è un guaio, sì, no, sì, i matrimoni gay e tutte queste robe qua. Beh, insomma, uno deve almeno pagare lo scotto di avere una vita specchiata, lei, sì, e la di lei marito, visto che tra l'altro sono sposati a Predappio il 29 ottobre, sì, in occasione della marcia, sì, su Roma, bla bla bla bla, 28 quello che è, sì, e via dicendo. Allora hanno sbagliato anche i giornali perché hanno scritto 29. Boh, forse era 29. Insomma, ma non è della FIA, cioè quando io ero in Parlamento, sì, quando per esempio c'è stata la vicenda Cosimo Mele, sì, Cosimo Mele aveva, come tutti sanno, quello che è andato con sì, un pezzino, sì, di cocaina, bla bla bla, aveva appena firmato una legge contro chi si droga, un'altra legge contro chi va a prostituzione. Ma insomma, se fai il moralista, almeno devi avere una vita specchiata. Beh, ma scusi, però che, no, che c'entra lei col marito? Perché la vita specchiata lei magari ce l'ha, è il marito che non ce l'ha. C'entra per molti motivi, prima di tutto perché lei ha sempre detto che le famiglie cosiddette normali sono esenti da, scusa, qualsiasi problema, che noi sappiamo, invece, che non è vero. E sappiamo che non è vero, perché se in Italia una donna ogni due giorni viene ammazzata dal maschio criminale di turno, ma comunque mi dica la verità, Grini, qualche problema ce l'ha. Lei un po' ha goduto poi, per questa cosa. Poi, no, fammi dire, poi, se tu dici che uno che va con una prostituta di 14-15 anni è un pedofilo, come lei ha detto, sì, che deve essere sottoposta alla castrazione chimica, sì, beh, adesso ci devi dire cosa farà col marito. Cioè? Evidentemente adesso è tranquilla, visto che è andata in chiesa, a braccetto, come se niente fosse successo. Cioè, se tanto mi dà tanto, dovrebbe proporre la castrazione pure al marito? Ah beh, lei ha proposto la castrazione di tutti quelli che vanno con le prostitute di 14 o 15 anni. Dei pedofili, ha detto, non è che dei pedofili. Non è che ha detto, allora, la castrazione intanto, per quelli che una volta vanno con le minorenni. No, cioè, no, no, no, no, ha proprio detto, proprio fatto anche l'età. Hai capito? E dunque? Cioè, lei fa parte. Cioè dovrebbe castrare il marito, dice lei. Dovrebbe castrare il marito. No, voglio dire, no, ci deve dire se ha cambiato idea. No? Vabbè, vada fino in fondo, se fosse coerente dovrebbe proporre la castrazione pure per il marito. No, questo lo stai dicendo tu. Io sto dicendo, ci dica adesso come la pensa. Io voglio sapere come la pensa. Ma magari la pensa allo stesso modo, cioè, però per i pedofili. Un po' di bromuro. A chi? Lei, bromuro per chi? Secondo lei, secondo il marito, un po' di bromuro, così si sta calmata. Secondo questa area, diciamo così. Lei comunque ha goduto, Grini, da quello che sento ha goduto, su, fa parte di quel 50% no, che ha goduto. Ti ripeto, non si gode delle disgrazie. Lei ha goduto. Lei ha goduto. Io sono uno che fa un ragionamento politico freddissimo. Perché io l'ho vista questa roba, io ero in Parlamento quando in Commissione Giustizia, dove io ero, fu approvata la legge Ruby e fui l'unico ad opporsi all'elevamento dell'età legale per la prostituzione dai 16 ai 18 anni, su 44 commissari, 44 parlamentari, fui l'unico che, se mi davano retta, era meglio. Anche per Berlusconi era meglio. Qualcuno avrebbe avuto qualche guaio in meno. Un attimo solo, traffico. Le zanzare di casa mia. Siamo qui con Davide Parenzo in collegamento dallo studio di Roma, questa volta live perché lo studio è stato, come dire, ripulito. E in collegamento. Come ripulito? No, ma ripulito dalla presenza, mica dalla sporcizia, dalla presenza di altri. Mamma mia, come ti danno fastidio le parole chiare, evidenti, lampanti. Ti dà fastidio tutto quello che è chiaro. Devi sempre usare. Ma non c'è nessuna maleducazione. Il cattivo gusto, smettila. Ma quale maleducazione? Ma falla finita questa maleducazione. Ma quale maleducazione? Beneducata, ma falla finita. Beneducata. Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay. L'avete ma... ripulito dalle cimici? Ma no, l'abbiamo ripulito, ma era un'espressione, ma questo si fa impressionare pure dalla sua ombra. Allora, Grillini, vorrei capire una cosa. Io impressionato. Mamma mia, oh. Ma dunque, come definirebbe la Mussolini? Una moralista, come? Una moralista? È una moralista che fa parte di tutto quel gruppo di moralisti da quattro soldi che c'erano in Parlamento e che ci sono tuttora, sì, che passano la loro vita a cercare di imporre la loro visione del mondo agli altri. Dunque questa non è una lezione, quella che le è arrivata col marito è una lezione, dice lei. Ma è certo che è una lezione, perché il problema è che non esiste, diciamo così, la normalità. I guai esistono sempre. Il controllo della sessualità è la cosa più difficile che esista in questo mondo. Il sesso è la cosa più forte che noi abbiamo. Io credo che neanche voi lo controlliate. No, allora, io per niente. Appunto, vedi, allora mi dimostri. Tra l'altro, io avrei dovuto fare quello di mestiere, cioè il sessuologo, e ti posso assicurare che controllare il sesso quando ti arriva l'ormone è una cosa, è la cosa più difficile. Parenzo, del mondo. Tu lo controlli il sesso quando arriva l'ormone? Penso di sì. Tu pure il sesso controlli quando arriva l'ormone? E che sei? Che controlli intende? Le parole, controlli il sesso, e che sei? Un robot? Una macchina? Che? Ma questo non lo so. Grillini, lei lo controlla il sesso? Cosa vuol dire controllo? Ma io ho appena compiuto 59 anni. Ma 59 anni uno ancora è attivo o no? Cioè... No, io ormai l'ho appeso al chiodo. Cioè ormai non le tira più, Grillini, scusi. No, ma praticamente, diciamo così. Ma è fidanzato? Come dire, io devo dire, il fidanzato è sequestrato a centinaia di chilometri di distanza e quindi dove, facciamo scusi? Cose virtuali. Tra l'altro le cose virtuali... Cioè fate sesso su internet? Sì, esatto. Fate sesso su internet? Siamo al top. Le immagini si ci intercettano. Vabbè, ho capito, intercettano. Consapevole tutto. A proposito di cimici, qui il problema ma è. Ma quanti anni ha il fidanzato, Grillini? Quanti anni ha? Una trentina. Beh, ma voi com'è che vi specializzate sempre tra Lecce e Chipaone con questi fidanzati di 20-30 anni più giovani? Ma perché noi siamo rimasti all'antica Grecia. E poi basta con questa roba che ci devono essere delle regole. Perché ci devono essere delle regole? No, perché io sono d'accordo con lei. Sì. Nel sesso bisogna rispettare la legge. No, ma è la vero. Legge è molto chiara. Però scusi un attimo, ma questo trentenne. Una volta che è rispettata la legge, è tutto lecito. Questo trentenne si accontenta del sesso? Certo. Ma ho capito. Fuori dalla camera da letto. Nessuno lo mette in discussione. Grillini, perché questo trentenne che sta con lei si accontenta del sesso virtuale? Scusi. Perché in questo momento sta facendo l'università dall'altra parte, quindi sai, lì c'è poco da fare. Vabbè, ho capito. Io, però io, come tutti i bolognesi, siamo un po' pigri, non voglio trasferirmi, quindi sì, figuriamoci. E lui? Lui farà qualcos'altro, cioè la tradirà in qualche modo, no? È fedele. Ma lo spero per lui, perché poi tra l'altro a 30 anni uno c'ha ancora di ormoni a 1000, Appunto spero dico, appunto, cioè voi quanti rapporti avete all'anno tolleranti. Voi? Lei, Grilli, col suo fidanzato, quanti rapporti avete all'anno? Un paio. Un paio all'anno? Ormai lei ha appeso tutto al chiodo. Luciani, io ti volevo fare un ragionamento fulminante, molto semplice. Qual è? Mica tutti siamo uguali, mica tutti pensiamo sempre dalla mattina alla sera a quella cosa lì. Tutti abbiamo gli ormoni. Pensa che c'è l'11% della popolazione che non gliene frega niente del sesso. Beh, poco, però l'11%. Sono, tu fai io parte... che sono libertario, difendo anche i diritti di chi non lo vuole fare. Ma tu fai parte di quell'11% ormai? No, io faccio parte di quel 40% che quando capita, capita. Quando capita, capita, Quando capita, capita. Vabbè, due volte all'anno col tuo fidanzato, il resto? Roba così al volo? Sarà un'altra volta e mezzo. Un'altra volta e mezzo, Senti, sì. Ma la Mussolini che va in chiesa, che immagine è? La Mussolini ovviamente può fare quello che gli pare. Io, tra l'altro, da libertario difendo anche il suo diritto ad andare in chiesa. Sì. Che immagine è? Cioè, prima escono gli articoli, l'ho cacciato di casa, ma poi il quadretto, no, col prete che benedisce, via dicendo, è un trionfo dell'ipocrisia, secondo pure me. Quello. Comunque affari suoi. Pure, cioè, appunto, trionfo... Scusa Franco, ma dimentichi che la signora Mussolini non ha commesso alcun reato, ha semplicemente sposato una persona che ha scoperto dopo non so quanti anni di matrimonio che secondo la procura sarebbe andato a letto con una minorenne. Cioè io questo che non capisco, cioè far pagare a lei un prezzo per cui non ha colpa, una cosa di cui non ha colpa, cioè aver sposato uno che poi ha scoperto. Questa è la questione. Davide, non sto facendo pagare nessun prezzo a nessuno. Si discute di questo, infatti. Si discute del fatto che la Mussolini dice ha ricevuto alla luce di quello che è successo, certe robe sguaiate e sessuofobe e moraliste che sono sempre state dette potrebbero essere riviste. Questo è cioè, ormai, ma sulla base di cosa? Secondo te alcune battaglie non le potrà più fare la signora Mussolini? Questo ah, ma mi pare difficile. Ma perché? Non c'entra lei direttamente. Vabbè, però vai, quando viene coinvolta la famiglia, viene coinvolta la famiglia, non c'è niente da fare. Sei travolto. Se tu teorizzi. Ma la responsabilità la penale è personale. La santità, eccetera, eccetera, della cosiddetta famiglia tradizionale basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, benedetta da Dio, scritta Dio nel cuore degli uomini, e la formuletta che ormai si ripetono fino alla noia. Beh, insomma, quando scopri che così non è, prima di tutto bisognerebbe dire ho sbagliato qualcosa nella mia vita, come minimo ho sbagliato a sposare uno. Poi vabbè, quello sono affari suoi, mica la colpa. Noi non abbiamo sentito pubblicamente, cioè qui c'è comunque il marito di uno che è un aspetti che dobbiamo chiudere, Grillini, dobbiamo chiudere, abbracci, a presto. In questo caso le provvidenze di Dio è ancora qua, Simo. Siamo dell'Udri, sì, siamo qua, però se lei ci dà buca, amico mio, doveva parlare qui alla Zanzara il professor maestro dell'Udri, tuo amico personale, Parezzo. Beh, invece poi all'ultimo momento, vabbè, comunque, no. sarà per un'altra volta. E intanto pare che sia la volta buona, forse mandiamo a casa pochi, sempre pochi, 85.000 statali. Speriamo non sia una bufala, perché sì, poi magari vengono riciclati da altre parti, vengono riciclati. 85.000 statali, non pare. È poco, quasi un paese, quasi una città. Beh, anzi, sempre una poco, città. Sempre poco. È come se improvvisamente sparisse una città. Sempre poco. Sentiamo Luttuak che cosa propone invece, il professor Luttuak. Quanti statali cacciare? Luttuak. L'Inghilterra, con l'attuale governo, che è un governo di coalizione, ha semplicemente agito per rilanciare l'economia. Come hanno fatto? Hanno tagliato le tasse. Come hanno tagliato le tasse? Perché hanno licenziato 500.000 di dipendenti pubblici, hanno scoperto che non fa nessuna differenza. In Italia, a occhio croce, direi 750.000, ma l'azione britannica è stata fatta perché c'è una nazione. 750.000 occhi e croce bisognerebbe tagliare in Italia, dice Luttuak. Stiamo cominciando lentamente con 85.000, ma arriveremo. Che in realtà sono prepensionamenti alcuni. Vabbè, comunque, insomma, si comincia mandando via 85.000 persone, pare, sembra. Tu lo sai che un dirigente della pubblica amministrazione italiana, dello Stato, guadagna 12 volte in più rispetto al reddito medio? In Germania 4, in Gran Bretagna 5. In generale, un dirigente della pubblica amministrazione, che c'entra un insegnante, guadagna 12 volte in più rispetto al reddito medio generale. In Germania sono 25.000 euro all'anno. Sì, ma non c'entrano niente gli insegnanti. 12 volte in più rispetto al reddito medio. In Germania sono 5 volte in più, 4 volte in più. In Gran Bretagna 5. Vabbè, questa è la situazione. Dirigenti della pubblica amministrazione strapagati. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Mosca vota il ritorno della Crimea nella federazione, le prime sanzioni dell'Occidente, Putin escluso dal prossimo G8, tensione nella penisola, muore un soldato ucraino, la ricetta di Cotarelli, tagli da oltre 3 a 5 miliardi in 8 mesi sulle pensioni, decide la politica, statali nel mirino, i sindacati, un attacco al sistema pubblico. Dopo il test di Berlino, Renzi si prepara alla tappa di Bruxelles, la politica, dice presentando il libro di D'Alema, deve ridurre lo spread tra Europa e cittadini, attesa per la sentenza definitiva della Cassazione sui 2 anni di interdizione dei pubblici uffici di Silvio Berlusconi per il processo Mediaset, in serata il verdetto, strage di mafia a Taranto, non aveva ancora 3 anni il bimbo ucciso in auto con la madre e il suo compagno, illesi 2 fratellini più grandi sul sedile posteriore. Ospedali di tutta Italia a rischio collasso, mancano i medici d'urgenza nei pronto soccorso, per Italia le borse di studio e corsi di formazione. Il 20 marzo del 1994 venivano uccisi in Somalia i nostri colleghi Ilaria Alpi e Miran Krovati, in 20 anni di misteri e di pistaggi, a cui Rai 3 dedica giovedì la prima serata. Storia di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. storie ferme sulle panchine in attesa che un lieto fine. Beh, caro David, in collegamento dalla Russia con noi, lo abbraccio, Riccardo Fogli, buonasera. Buonasera, vi abbraccio forte anch'io, sono ancora Fogli lì. Come stai, come stai? A bordo di un carro armato. Dice Parenzo, come va? Sventola la bandiera del democratico Putin sulla libera Crimea. Sei il solito stronzo. Piccolo Putin. Piccolo Riccardo, tanto mettimi piccola Katie subito, sciolto, ti prego. Immagino che lo conosci, yeah. Immagino ma che sì, lo conosci Parenzo, ma no? Ho giocato un assetto e mi mancate un po' qui in torneo in Russia. Noi siamo qui da 20 giorni. Hanno arrestato qualcuno intanto in questi giorni, Riccardo? Chi devono aver arrestato? No, scusa, non so, magari vai sul palco, allora, prova a dire Ucraina. Però improvvisamente fai questo test zitto, per noi. Stai un attimo, no, zitto. Voglio che, un attimo. Voglio che il compagno Fogli, voglio che Fogli faccia per noi questo test. Cioè, improvvisamente durante il concerto, così improvvisamente impazzisce e dice Ucraina free, Putin va cagher. Improvvisamente. Vediamo che succede, solo per capire. Ma perché per sei un cantante? Perché dovrebbe per farlo? Capire, per fare un piccolo test di freedom. Si chiama Freedom Test. Freedom. Senti, Riccardo, ma vuoi rispondere intanto al tuo ex collega dei Pooh, che Facchinetti, che ha detto insomma che non gli è piaciuta troppo quella tua esibizione sul palco in Crimea? Senti, ho imparato a preoccuparmi solo di quello che penso io. Però a Facchinetti ti voglio bene, qualunque cosa dica io la ascolto con affetto. Però l'ascolti con affetto e dici fatti gli affari tuoi o no? O no? No, ormai glielo dico quando torno in Italia, gli dico che non c'hai capito niente, cosa sono andato a fare. Io sono andato a cantare le mie canzoni in una festa, boh, che a me mi è sembrato serena, dove si mescolavano le bandiere, dove non ho visto carri armati, gente. Però se Parenzo vuol pensare che io ho cantato su un carro armato e fanno ridere Parenzo, io faccio questo ed altro. Ma io scherzo. Però scusami, Riccardo, io ieri quando abbiamo commentato questa cosa ho detto ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? C'è un cantante con la sua gruppo che va in Russia, viene evidentemente pagato per fare dei concerti, lo chiamano per fare un concerto, io il referendum è passato con il 97%, ieri Massimo Cacciari, che certamente non è un putiniano, ha detto perché l'Occidente si deve mischiare in queste cose e soprattutto ha detto perché non è legittimo il referendum in Crimea come altri referendum invece sponsorizzati dall'Occidente e da Obama. Adesso non ti voglio fare entrare in queste situazioni. Perché tutta questa ironia per il fatto che sei andato a cantare lì? Me la sai spiegare tu? Guarda, io non sono minimamente preoccupato. Posso anche dirti questo, non mi sono neanche fatto pagare, perché è una cortesia che mi ha chiesto un organizzatore con il quale lavoro 10 volte all'anno. Sì. Avevamo il giorno libero, ci ha mandato a prendere da un aereo privato, da un charter grande come una casa. Sì. Eravamo 3 o 4 artisti tedeschi, 2 francesi, 2 inglesi, e siamo andati, ho dormito meravigliosamente, che non dormivo da un po', mi sono trovato su un palco con Allegria. Guardate, io non devo vendere niente, perché i dischi non li devo vendere, c'ho una bella pensione e me ne sbatto altamente, io canto perché mi garba cantare. Se lì avessi visto una cosa ambigua, una cosa torva, pericolosa, io avrei detto guardate, io per cui mi stai dicendo che sei andato gratis sostanzialmente, non sei stato retribuito per quel concerto lì? No, non posso dimostrare, ma le altre volte mi faccio pagare. Posso dirti, se mi chiedi ma lo rifaresti domani? Ti dico di sì, ma perché no? Io cosa ho fatto? Ho cantato le mie canzoni che conoscono, sono stato in mezzo a donne, specialmente donne. Io vorrei che ci fosse, come dire, un paragone, un confronto. Lì c'erano donne libere per i fatti loro, con una bottiglia di birra in mano, che cantavano storie di tutti i giorni. Io ero là. Quindi qual è il problema? Bellissimo, c'è un popolo festante, allegro, soprattutto donne, dici tu. Ma soprattutto donne, a dimostrazione della libertà che c'è. A te della questione Putin, la democrazia, la Russia, diciamolo chiaramente, non te ne può fregare di meno, o no? No, adesso che mi ci fate pensare, perché adesso sono 48 ore che vengo chiamato, ma neanche il giorno dopo il Festival di Sanremo a me l'ha chiamato gente, giornalisti che io leggo solo nei libri, capito? Mi chiamano e mi chiedono. E io dico, ma scusa, è un fatto politico o vuoi sapere che cosa? Mi vuoi mettere in bocca delle parole o che cosa? Non ho visto carri armati, gente armata, non ci sparavano, sembrava una festa della democrazia, del socialismo, dell'unità, era una festa, fine. Io ho cantato, sono stato felice, mi hanno regalato una bottiglia di vino della Crimea, ce la siamo bevuta alla fine, che se avevamo un freddo morivamo all'aperto in un palchettino di quattro. C'era la mia band pronta a cantare insieme a me, ma non abbiamo potuto cantare, ho cantato su dei nastri che casualmente avevamo noi sul telefono. Per cui Facchinetti non ha capito niente, vuoi dire Facchinetti non ha capito niente di quello che è successo? Cioè se sapesse quello che è accaduto non avrebbe reagito in questo modo? Ma credo che Facchinetti sia un uomo intelligente, quindi quando gli spiegherò la cosa, ammesso che io debba spiegare qualcosa a qualcuno. No, beh, no, ma infatti secondo me non devi spiegare niente a qualcuno. Cioè, ma voglio dire, secondo te adesso hai letto un po' su questo, su quello che è accaduto in Crimea o non te ne frega niente? No, assolutamente, io ho visto tutto. Noi siamo entrati nell'isola di Crimea alle 2-3 del pomeriggio e abbiamo visto per le strade la gente che usciva di casa mano per mano con i bambini che andavano con un palloncino, chi con le bandiere ucraine, chi con le bandiere della Russia. Sì, io non mi sono posto il problema, era una minoranza certo, ma voglio dire, è come la Lazio e la Roma, ci sono famiglie che tifano Lazio e famiglie che tifano Roma, magari si menano allo stadio, io non ho visto nessun tipo di violenza, non so se mi spiego. Ma secondo te in generale consideri Putin un democratico? Senti, io non lo conosco, devo dire, non abbiamo mai parlato a quattro occhi, devo dirti che quando aspetta che bevo un bicchiere d'acqua, io ho finito il concerto ora. Sì, lo so, alle 7. No? Attento all'acqua. Quante ore di concerto riesci a fare ancora? Chissà che ti mettono nell'acqua. No, no, io sono maratoneta. Insegna. Lo sai. Sì, lo so, me l'hanno detto. Ho corso la maratona per dirti nella vita. Ho corso la maratona in New York del 2000 e 2001, quando gli italiani si sono ritirati, dovevamo essere 6.000. Sì. In 1.100 abbiamo corso per la paura. Io non ho paura di niente. Il polonio hanno messo, io non ho paura neanche di dire. No, dico attenzione perché lì c'è precedente. Io non so bene che cosa stia succedendo, cosa pensi il mondo di questo. Però nel dubbio non bere l'acqua, nel ma dubbio. Di fatto spiega a Parenzo che se il 98% delle persone alla fine ha deciso di essere russo c'era un'anomalia in corso. E un po' c'è un'anomalia, un po' mi preoccupa. Ma io canto Piccola Chetti, Parenzo, Maria Piccolo Maiala, Putin devi cantare, Maria Mabona devi cantare, oh Piccolo Putin, oh metti veramente che è stupenda, è meravigliosa, voglio... Piccolo Putin, ma perché Piccolo Putin? Oh, Piccolo Vladimir, che ex KGB. Sì, vabbè, ma che gliene frega? Che gliene frega? Vabbè, certo, a Riccardo Fogli. Lasciamela sotto, però non voglio sentire le tue cose, pure. Le tue considerazioni, non voglio sentire. Voglio sentire Fogli, Piccola Chetti e riflessioni sulla Russia democratica di Putin. Questo voglio adesso. Senti, Riccardo, ma oggi in Italia chi voteresti? Me lo vuoi dire? Ma senz'altro voterai Renzi. Senz'altro, mi piace il coraggio di Renzi. Guarda che dire per chi vota, il cantante che dice per chi vota, porta sfiga. No, perché che no, vota? Invece va benissimo. Invece va benissimo. Ho capito, ma a me non me ne frega niente. Io ho 712 euro di pensione, 13 mensilità. Ma io vado, me ne frega quanto? Tutti. Ma perché ti piace Renzi? Mi piace Renzi perché è coraggioso, è un po' strafottente, coraggioso, un po' come guastone. Putin. Che dice cambia, questo non va bene, ha idee chiare. Ma tu hai sempre votato a sinistra oppure no? Guarda, io ho anche la tessera della sinistra, perché io nasco operaio della Piaggio di Pompedera, quindi credi a me. Sì. So come la vita, mio papà ha fatto l'operaio 50 anni, quindi io sono un uomo di centro. Se vogliamo dire la verità, il mio papà mi ha sempre insegnato che la verità sta nel mezzo, lui era un democristiano convinto. Io ho votato Berlusconi, devo dire in passato ho votato Berlusconi perché speravo in un certo cambiamento, poi non mi ricordo per chi ho votato, guarda. Non lo so, potrei aver votato per Monti. E adesso? Sì, ho capito. Un attimo Riccardo, ho la pubblicità, tu sai cos'è la pubblicità, poi ci risentiamo, un secondo. Bene, siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Che c'è? Che è successo? Che fate? Ah, il rumore del microfono, è che è? Normale, normalità democratica. Piccola Chetti, ti hanno arrestato. Ma chi hanno arrestato? Vladimir Putin. Ed il tuo diario che sempre riempivi. Sono con ciò che... Ma quanto è popolare in Russia ancora questa canzone, Riccardo? Beh, è stupendo. Guarda, questa in particolare non tanto, perché loro amano la musica degli anni 80-90. Tra le tue qual è quella più popolare? Le storie di tutti i giorni, Malinconia, Compagnia, Per Lucia, so che è un mondo sconosciuto a voi, però no, ma che sconosciuto? Sconosciuto, ma stai scherzando? Io mi nutro di queste canzoni, io sento solo queste robe qui, musica italiana, in particolare musica pop, musica soft, musica di questo tipo. Com'è quella più popolare? Com'è che fai quella? La più popolare fa storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da tutti i giorni. Eccola là. Vecchi discorsi. Senti una cosa, ma a te per esempio delle leggi di Putin sui gay non te ne importa nulla, le sai, le conosci? Beh, mi sembra di capire che sia un po' severo, un po' troppo severo. Un po' troppo severo, diciamo, sulla propaganda soprattutto, eh? Cioè sul fatto che non si può fare propaganda gay o però, cose. Però una cosa che non sapete è che per esempio Mosca ha dei quartieri meravigliosi di artisti, sì, di pittori, sì. Il, come si chiama, Rabat mi sembra, dove tu giri e ci sono pittori probabilmente gay, perché non è che hanno scritto in faccia gay, sì. O non sono gay, non è che qui mi sembra di capire che insomma certe manifestazioni gay ispirano, che a noi piace fare, vedere in televisione qua non siano permesse. Sarà perché è freddo fuori, no, e gli consigliano di non uscire. Non è solo per questo, no, forse. Credo che sia per altri motivi. Che qualcuno non c'era arrivato. Qualcuno viene un po' bastonato. Tu prova, Riccardo, durante il concerto, sembra a un certo punto tra una canzone e l'altra a dire gay is good. Vediamo che succede. Homosex, sì, is free. Parenzo, non è il mio mestiere. Io non faccio. Prova. Io canto le mie canzoni. Ma no, ma infatti, ma prova solo per capire la reazioncina, che succede? Cioè, improvvisamente lui vuole sai che cosa vuole dire Riccardo? Che un cantante alla fine vuole dire questo, un cantante deve rendersi conto nel posto in cui si trova, e secondo me secondo per tutto dovresti dire no, Putin è un antidemocratico, io dico semplicemente che se per caso improvvisamente Riccardo canta le sue canzoni, cioè, all'improvviso sbrocca, no? Prende il microfono e dice viva gli omosessuali. Secondo me tempo 50 secondi cioè, staccano proprio, c'è, cioè, un signore. Quello può essere, ma Parenzo, ma può essere anche che sei a una festa a Scandicci o se sei a Reggio Calabria, a un bel matrimonio, cioè, tu dici una cosa che secondo loro è insensata o inadeguata, può essere pure che ti tirano trance. Io sono una persona che mi so comportare, io so, ho 66 anni, non vado a fare il biscolo, vado in giro con la mia vita a vivere, quindi so cosa si può dire, so cosa non si può dire. Se sono ospite cerco di comportarmi la persona per bene e intelligente. Non mi pare che, scusa, tutti questi ipocriti che criticano la Russia per alcuni aspetti che riguardano i gay, poi fanno accordi commerciali con la Russia, vanno tranquillamente in Russia. Certamente. Anche gli Stati Uniti, che hanno criticato la Russia per la questione della Crimea, per la questione delle Olimpiadi dei gay, hanno accordi commerciali a tutto campo con la Russia, non è che rompono i rapporti con la Russia, per cui stiamo attenti a queste cose qui, non diciamo stronzate, dai. Cioè, secondo te, dimmi Riccardo. Quello che vedo io è che qui tutti lavorano, la mattina alle 4 ci sono già le code di camion, di macchine che vanno a lavorare, rientrano alle 10 di sera, sento parlare con le interpreti che hanno 3-4 lavori, ne cambiano uno, ne prendono un altro, mi sembra di capire che io sto bene in Italia, io voglio vivere in Italia, però mi sembra che ci sia dell'allarmismo esagerato sulla Russia. Della Russia, mi sembra, poi io mi faccio gli affari miei. Okay? Cioè Putin ti sembra un grande come governante? Mi sembra che da quello che leggo sui giornali è molto amato, è molto amato. Giornali, ovviamente è amato da molti. Sì. A qualcuno sarà sulle palle, ragazzi, ditemi voi. Però ci vorrebbe uno come Putin in Italia, secondo te, uno con le palle come Putin o no? No, a noi va bene Matteo Renzi, credo. A me andava bene anche Monti, devo dire. Poi noi abbiamo Napolitano. Ma cosa vogliamo? Ti piace Napolitano? A me mi garba Napolitano. Ti garba, eh? Mi garba. Che c'è uno che mi non garba. Ti garba? No, l'hanno messo in condizioni di comportarsi, non dico male, però si deve arrampicare sugli specchi questo vecchio, stava bene in pezzone, il mare in mano fuori. Riccardo Fogli, grandissimo, vedi che viene fuori l'accento, no? Mare in mano, perché di quale zona esattamente? Della Maremma. Sono nato a Pontedera, che non è Maremma, non è Maremma. Poi ho vissuto a Piombino, facevo il gommista a Piombino. Quindi hai conosciuto, forse anche hai conosciuto forse anche il papà di Fabio Mussi, che lavorava alle fonderie a Ma Piombino. Perché uno dovrebbe conoscere il papà di Fabio Mussi? Perché Riccardo viene da una famiglia di comunisti, e siccome anche i genitori di Mussi ha detto che era democristiano il padre. Ma guarda che sei incredibile. Ma sì, era chiudi la telefonata, basta, chiudi subito con la Tu lo sai che l'Europa ha deciso delle sanzioni contro Putin pure, pare, oggi, sembra. Sì. Ma immagino di sì, immagino che qualcosa l'Europa debba fare, debba dire, però da quello che leggo sono sanzioni soft, se mi permettete. Un po' soft, sì, un po' soft. Sì, un po' soft. Un po'... Non è che comunque, detto, vogliamo... da domani? Io ho detto che quando hanno detto ricongeliamo sì. i beni, le cose, lui ha detto ok, fatemi pensare un attimo cosa possiamo fare noi. E quindi credo da quello che io leggo sui giornali, non scrivo. Sì, sì. E questo avrebbe detto, beh, se voi fate questo, io fate quest'altro. E quindi è diventato un po' soft. Quindi mi sembra di capire che ci sia un mondo di ipocrisia. Grandissimo. Senti, vogliamo concludere, Riccardo, con questa trama dicendo viva la Crimea? Viva la Crimea o no? Forse. Guarda, sì, sì, no. Se tu diciamo... me lo chiedi, ti posso dire viva la terra libera che decide per chi votare e da che parte stare. E, basta. E dunque viva la Crimea libera. Viva la Crimea che ha deciso di essere russa. Ti abbraccio, a presto, non, ciao. Non ti basta, a presto. No, mi basta, come no, mi basta. ciao. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. Oh, dove andiamo? Michele da Torino, anzi no, andiamo. Stefano, provincia di Venezia. Stefano, provincia di Venezia. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Ciao. Allora, come sento spesso anche questi giorni Brunetta, la Santanchè, che vogliono che Berlusconi sia il candidato alle europee in tutte le circoscrizioni, ma forse, non so, questi non lo sanno o fanno finta di non sapere che la parola candidato l'hanno inventata apposta perché questi ci rappresentano e devono essere lindi, puliti, candidi, come proprio dice la parola, cioè, o fanno finta proprio di non... cioè, è questo che non capisco, cioè questi qua continuano ancora a volere questa persona che li trascini, ma alla fine, cioè, com'è? Stefano, però scusi, da questo punto di vista non è che li si può accusare di qualcosa, e vogliono che il loro leader si vada, guidi la truppa di Forza Italia alle elezioni europee, non mi sembra una cosa così scandalosa, dopodiché è tutta politica, è tutto un chiacchiericcio, è tutta propaganda, perché tanto sanno benissimo che Berlusconi non si potrà candidare alle elezioni europee. Io ho proposto ieri a Sallusti una cosa, bisogna 5 Berlusconi diversi candidati in 5 circoscrizioni, Luigi Berlusconi, Barbara Berlusconi, Luna Berlusconi, Marina Berlusconi, e sono 4, manca un Paolo quinto, Berlusconi. Paolo Berlusconi, i suoi guai ce l'ha pure lui, un altro, una quinta persona, un quinto Berlusconi, ce ne sono 6-7 in giro adesso, Eleonora, bravo. No, Dudu, il cognome di Bellicani non si possono candidare. Stefano, grazie. Angelo, provincia di Torino. Non c'è Maurizio Milano. Allora, buonasera. Dimmi. In merito alla questione di Floriani e della Mussolini, vorrei dire alcune cose. Allora, prima di tutto che secondo me quello che è capitato alla famiglia non è una cosa gravissima. Io personalmente non mi sento di criminalizzare né il marito e né tantomeno... Ma lo sa da cosa nasce quello che è successo? Lo sa da cosa nasce? Dal fatto che non abbiamo quello che c'è in Austria. In un posto che si chiama Hohenthurn, 807 abitanti, a un quarto d'ora di macchina da Tarvisio, provincia di Udine, è stato inaugurato da qualche mese il bordello più grande d'Europa. Sì, quello che è successo al signor Floriani, al signor Mussolini, accade perché no, non ci... Floriani, sì, al signor Mussolini, al signor Mussolini. No. Di le cose, no, non no, essere quello che è accaduto guascone. Al signor Mussolini, quello io sono guasconissimo, quello che è accaduto al signor Mussolini, scusa, accade perché non c'è quello che esiste in Austria, capito? Dove tra l'altro i clienti sono solo italiani, pagano 79 euro per entrare, hanno diritto a buffet, bevande analcoliche, 2 bicchieri di birra, accappatoie, asciugamano, ciabattine da doccia. Poi sono circondati da 140 bellissime donne nude, tra bagni turchi, dolce, sauna, eccetera, eccetera. Paghi direttamente le prostitute che esercitano come libere professioniste, in regola e tassate. Ha capito Maurizio perché accade? No, lei si deve, dice delle cose false. No, allora, prima delle cose verissime, guardi, delle cose verissime. No, mi scusi, lei dice delle cose false. Primo perché comunque in questo posto, dov'è che ha detto che è, mi scusi? In Austria, un quarto d'ora di macchina da Treviso. Ok, va bene, in Austria non credo che si prostituiscano ragazze di 14 o 15 ma anni. Ma no, ma sto dicendo, ma è chiaro allora, questo, Mauri, è su, è namo. Certo che non si prostituiscono minorenni, ma è normale. Male, no? No, non, mi scusi, lei ha detto che questa vicenda è scaturita perché in Italia non c'è... Sto dicendo che se ci fosse la legalizzazione della prostituzione, forse il signor Mussolini non sarebbe incappato in quello in cui è incappato, chiaro? Allora, il punto è un altro, però, mi scusi. Beh, è che se la, questa vicenda non ave- allora, io al signor Floriani auguro tutto il bene di questo mondo, ma se questa vicenda non avesse coinvolto lui e i Pariolini, ma avesse coinvolto dei cittadini extracomunitari tipo romeni, marocchini e via dicendo, non oso immaginare cosa sarebbe successo. Cioè, si sarebbero tutti i politici pronti a farsi pubblicità sulla pelle dei disgraziati, si sarebbero messi in prima fila, a cominciare dalla Mussolini, che sicuramente avrebbe sfoderato tutto il suo repertorio preferito quando c'era a prendersela con qualche disgraziato. Va bene, grazie, grazie. Giussi da Roma, buonasera. Pronto, Cristiani, mi senti? Sì, dimmi. Sì. Sì, pronto, buonasera. Ascolta, volevo fare una precisazione in merito a quanto hai precisazione. Detto. Qui non si fanno precisazioni, qui non si fanno precisazioni. No, perché hai detto, perdonami, hai detto delle scorrettezze, quindi ritengo... Io le dico sempre le scorrettezze. Questa è una trasmissione scorretta, naturalmente scorretta. È normale che si dicano delle scorrettezze. Allora le informazioni che vengono divulgate sono la maggior parte sono false. No, ma sto scherzando, Giussi, che cosa devi dire? Dimmi. Allora, ti devo dire... Primo, il taglio degli 85.000 dipendenti pubblici, la cosa non è che si deve prendere con grande leggerezza, perché vi invito a vedere quali sono tutte le assunzioni al di fuori del concorso pubblico che fanno i ministri, i viceministri. Sono sempre temporanee, comunque. E che vuol dire che sono sempre temporanee? Giussi, cosa vuole dirmi? Ma che cosa? Il sottosegretario li alterna, per cui finito uno. Cosa vuole dirmi con questo? Lei è una dipendente pubblica? Assolutamente, io sono un pubblico dipendente. È un pubblico dipendente, ha paura di essere licenziato, di essere in questi 85.000, ha timore di questo? Anche, sono 18 anni che lavoro, ho superato un concorso, diciamo che sono abbastanza... Non si preoccupi, non sarà tagliata. Tra le altre cose faccio un lavoro pubblico anche di quelli molto delicati, perché faccio il segretario comunale. E conosco anche abbastanza, per aver ascoltato dei corsi, il segretario comunale di Renzi. Sì, ma non si preoccupi. Se lei fa un lavoro. No, io non mi preoccupo. Non mi preoccupo proprio perché. Se lei fa un lavoro che serve, se lei fa un lavoro che serve in un ente che serve, in una struttura che serve, non verrà tagliata. Altrimenti può darsi che rientri tra questi 85.000. Non mi preoccupo tanto di questo, anche perché ho altre garanzie, però volevo dire. Mi affido all'utilità, non ci credo, non fare il sarcasmo sul fatto che dici sempre cose inesatte, perché non è vero, è ciò che ci tieni. Allora, il punto fondamentale uno, ha ragione Luttuak, per superare la situazione che c'è in Italia bisogna tagliare non 80, non 90, non 100, non 200, mezzo milione, ovviamente non mezzo milione da un giorno all'altro. Mezzo milione di dipendenti pubblici in meno, molto semplice, mezzo milione, via. Ma non è un taglio... Mezzo milione, passa la paura, solo così si può uscire, solo così, insieme ad altre cose. Io non ci credo che seriamente sta pensando questa cosa. No, ma io lo sto pensando seriamente, come no? Molto seriamente, tagliare le tasse, tagliare i dipendenti pubblici, come no? Tagliare, certo, tagliare, non è che si mette sulla strada. I dipendenti pubblici vanno tagliati con oculatezza, vabbè, d'accordo. O le regioni. Sono dei carrozzoni, avete mai provato ad andare alla regione Lazio? Ma io sto dicendo dipendenti pubblici di tutti i tipi, non solamente gli statali, anche quelli degli enti locali, eccetera, eccetera. Va fatto con grande oculatezza. Ma Giussi, nessuno dice di no. Tagliare quelli che sono inutili e non quelli che sono quelli che non sono raccomandati. Vabbè, ma questo chi è raccomandato e chi non è raccomandato, chi lo sa? Grazie Giussi, grazie. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Ormai sigla assoluta del nostro programma, Antonio Razzi, buonasera carissimo. Senatore. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Sono arrivate le magliette. Sì. Meno male che sono arrivate, ti piacciono? Beh, l'ho già indossate qui in diretta e le indosserò sempre più spesso, caro Antonio. Parenzo, tu ce l'hai la tua, l'hai indossata a casa? Mi è arrivata. Mentre fai all'amore a casa, l'hai indossata perché un altro cult è questo. Una volta voglio provare la maglietta, mi voglio mettere la maglietta di Razzi e fare all'amore, cioè trombare, caro Razzi, ha capito? Io la userò in altri contesti, magari. Io voglio mettere la maglietta con la foto di Razzi e fare all'amore, voglio vedere la trombare, insomma, diciamo. Ma dopo la tua amica pensa che sono io, perché c'è la fotografia mia. Vabbè, ma potrebbe essere pubblicità, potrebbe progresso, essere un'idea, caro Antonio. Magari un'istigazione o gli piglia un colpo oppure si eccita di più, tu che dici? Quello è anche probabile, così magari mi vede e quello dice mamma mia quanto è brutto questo, oppure magari dice, mi pare che una uomo, cosa abbastanza questa veritiera, non si sa, i gusti delle donne hanno diversi gusti, chi lo chi lo sa. Senti una cosa, ma hai visto ieri questo incontro tra Renzi e la Merkel? Sì, almeno ho visto, sentito. Sembra... Ci volevi tu col tedesco, caro Antonio, ci volevi tu col tedesco. Das wäre nicht schlecht. Kann ich nachher auch übersetzen, Mr. Renzi. Volevo dire che potevo anche... diciamo far da traduttore. Ma perché Renzi non ci ha pensato? Ti voleva portare a fare da traduttore là? Ma chi lo so, perché non sono della sua corrente politica. Beh, sei pur sempre il segretario della Commissione. Io sono di Forza Italia e ne sono orgoglioso. Però sei sempre il segretario della Commissione Esteri, ti poteva portare a fare... Senti, tu cosa avresti detto alla Merkel? Come si dice? Te lo dico da amico a Merkel? Io purtroppo le parole, diciamo, questi sporche non lo... Di solito quando si impara una lingua le prime parole che si imparano quelle sporche. Appunto. E io invece non l'ho imparato perché non ritenevo utile nella mia DNA quello di imparare quelle parolacce. Però ecco. Scusami Antonio, dimmi una cosa, ma la Merkel che fa un appello a Renzi, te lo dico da amico... dacci i sordi, questo è magari siccome Renzi è un giovanotto, io ho notato che quasi quasi si è vestito come la Merkel. Cioè? Se hai notato il cappotto che portava Renzi, era quasi come il vestito della Merkel. Io dico, ma mica gli hanno prestato la Merkel il cappotto a Renzi? Che era inguardabile, dici tu. Era. La Merkel si veste male, Si veste male, ma poi è quello che è. Come si dice in tedesco? Cioè, quella che è, nel senso che è bruttina forte, dici tu, dice, te lo dico da amico, X Aga via in Freund, via, cioè, amico è Freund, no? Amico. Cioè, te lo dico da amico. X Aga in via in Freund, io lo dico a lei come un amico. È proprio brutta, torniamo tra un attimo. C'è nata, non è che lo potevo cambiare. Torniamo tra un attimo. Quello vero è con noi, Antonio Razzi, senatore di Forza Italia, un mito, una leggenda. Io ho promesso che prima o poi mi farò una bella trombata con la maglietta, indosso la maglietta con la foto qui con la faccia di Antonio Razzi. Che mi io invece credevo che tu dici andiamo a mangiare due sagne e fagiolo lì al melograno con Antonio Razzi. No, ma quello ci andiamo lo stesso, che c'entra? Quello ci andiamo, però con la maglietta di Antonio Razzi, con la faccia voglio fare quello che ho detto prima. Parenzo, ognuno c'ha la sua fissazione. Bravo, parlo. Poi ti dico, l'hai fatto felice, poi ti dico l'effetto che fa, Antonio. Poi ti dico se fa un buon effetto. No. Senti, mi vuoi tradurre dal tedesco quello che ha detto Grillo l'altro giorno? Te lo faccio sentire, mi raccomando, stai attento. Anto, sentiamo un po' se riesci a tradurmi tu, che non ho capito niente. È quello che direbbe Grillo alla Merkel se vincesse le elezioni. Sentiamo. E poi andremo dalla Merkel e personalmente la guarderò negli occhi e dirò: Zweiten Sie verleihen Klasse, bitte Zucker, basse, miscele calde Zucker. Non mi mordere il dito. Cioè, non vuol dire niente, ha sparato a Muzzo, ha sparato. Non ho capito, ha capito di un bicchiere che si bevono insieme, ma non ho capito. Ma è lui che parla. È stato molto veloce che non ho riuscito a captare tutto. È lui che parla male tedesco, secondo me, o no? Non lo so come l'ha detto, non lo so. Vabbè, è difficile. Vabbè, gliel'avrà suggerito qualche suo, perché non credo che... Aspetta un attimo, fammi risentire un attimo. Aspetta che risentiamo. Aspetta. E poi andremo dalla Merkel e personalmente la guarderò negli occhi e dirò: Zweiten Sie verleihen Klasse, bitte Zucker in der Basse, miscele calde Zucker. Bah, e che vuol dire? Ma che bordi, io non ho capito un cazzo. Hai capito nulla. Senti, ma hai firmato per la grazia Berlusconi? Ma sicuramente, guarda, io credo che qui alle europee uno come il presidente Berlusconi è un orgoglio italiano. Certo. Anzi, dove? Dovremmo essere, ma tutti gli italiani sicuramente la voteranno perché ha capito che la sinistra lo vogliono eliminare perché sa così magari hanno un manbasso. Gli italiani Gli italiani lo amano perché è l'unico, sì. e ce lo invidiano tutto il mondo, cioè, e noi, perché loro lo sanno che non c'è, non c'è ciccia per nessuno se si candida, allora, lui non c'è triplice, sarà un exploit di voti. Com'è? Farà l'on-plane di tutti i voti. Dell'on-plane. Ci sarà un, non abbiamo... No, l'exploit si dice. L'exploit vincerà a tutte e cinque le circoscrizioni. Tranquillamente sarà il numero one, il numero uno. Scusa Antonio, ma non c'è la... Ho capito, questo adesso sarà candidato, non vorrei raffreddare. Non può essere candidato, dice l'Europa, capito? Ma questi magari anche l'Europa incomincia a aver paura, perché sa che se arriva Berlusconi lì è l'unico che può muovere anche l'Europa. Ma come è l'unico? Muovere verso dove? È l'unico. Ma verso dove? Scusa, scusi Giuseppe, sì. Berlusconi è un genio, come l'ho chiamato tante volte, è l'Archimede della politica. L'Archimede della politica. Dove? Ma dove può muovere l'Europa? È un genio, ha delle idee straordinarie che nessuno se la sognerebbe. Ma sull'Europa, per esempio, che idea? Ma sicuramente lui muoverà tutta l'Europa e sicuramente, ma per fare cosa, sicuramente riprenderà l'economia italiana e l'economia europea. Pure. Con Berlusconi al comando della... Con Berlusconi al comando stiamo tranquilli tutti. Tutti siamo tranquilli tutti. Tutta l'Europa riprenderà. Tutta l'Europa riprenderà. Ma sicuramente, e perché dovrebbero avere paura? Scusa. Ah, perché hanno paura, perché tutti gli altri lì non capiscono un accidente. Cioè, nemmeno né Hollande. Questi sono tutti invidiosi. Ma la Merkel è pure invidiosa? Cavolo, quella è la prima che è invidiosa di Berlusconi. Quella è la prima che è invidiosa di Berlusconi. Ma perché sa che ne sa più di lui, di lei. Ma perché è invidiosa, dici tu? Perché c'ha un sacco di donne, dici tu? No, questo è probabile anche quello, perché probabile lei, anche perché, quello. Perché lui non se la fila, dici, no? Perché non gli fa, Anche perché un genio c'ha sempre un sorriso. Hai mai visto Berlusconi arrabbiato? Beh, no, qualche volta che sarà capitato anche a lui. C'ha sempre e mette, sorriso. E mette, diciamo, serenità a tutti col sorriso. Io penso che questo è un pregio che il Signore gliel'ha dato. Beh, non c'è dubbio. Senti... Posso ricordarle solo, signor Razzi, però, che c'è stata una condanna definitiva che, diciamo, imporrebbe la sua non candidatura. Però, per carità, va tutto benissimo. Ma la grazia, io dico, la grazia. Pare che Berlusconi non sia tanto contento di questa iniziativa della Sant'Anchè. Lei l'ha messa la firma sulla grazia o no? Io ti devo dire la verità, che non ho visto niente di questi formulari, ma sicuramente io sono per appoggiare il nostro presidente, quello innanzitutto alla grazia. Ma che grazia deve dare? Ma perché deve dare la grazia? Lui è innocente. Ho capito. Allora, ma se uno è innocente, perché mi deve dare la grazia? Ma me lo dici. candidare, perché io è un diritto. Ci sono delle leggi. Si vuole misurare, mi sembra una cosa giusta. Misurare, e solo dopo gli italiani a decidere se è giusto o non è giusto. Se dopo anni milioni di voti. Ma hanno paura, la sinistra ha paura, dici. Se viene candidato non prenderà come tanti. Quanti voti prende secondo te? Quanti voti prende Berlusconi? 2 milioni, 3 milioni, quanti voti? Ma sicuramente supererà il milione, perché gli italiani lo amano e gli vogliono bene e lo sanno che la sinistra gli sta tagliando, diciamo, le gambe, perché lo vogliono eliminare, perché così magari loro hanno man basso su tutto. Ma invece gli italiani sono intelligenti, essendo una nazione, un popolo intelligente, hanno capito tutto. E ciò non lo vogliono candidare, perché hanno paura che appena piglierà milioni e milioni di voti. Allora, senti, Antonio, ma Berlusconi ai servizi sociali, perché non gli offri qualcosa lì in Abruzzo? C'è qualche posto dove... Sai, tanto che tu lo voglia o no, il 10 aprile andrà ai servizi sociali, oppure addirittura ai domiciliari, alcuni dicono, ai domiciliari. Sarebbe drammatico. Io penso che lì anche bisogna rimettere. Ma che faresti tu con Berlusconi ai domiciliari? Cosa faresti agli arresti domiciliari? Che faresti? No, gli arresti domiciliari sicuramente no. Ma andresti tutti i giorni proprio? Io personalmente non lì e non là, perché è un uomo non lì non là, che vuol dire non lì non là? no ai domiciliari e non a vabbè, ho capito, ma non è che c'è uno dei due, cioè, no? Beh, se dovrebbe scegliere quasi sì, obbligatorio, è meglio al sociale, perché almeno esce e fa vedere che lui è un uomo pulito, ecco. Come sì, pulire un po' il culo, pulire un po' gli handicappati, no? I disabili. Ma no? Guarda, che dovrebbe fare secondo te? Consigliali qualcosa, c'è un NG che tu conosci, una. Al ristorante dell'amico tuo. Ma sicuramente se verrebbe in Abruzzo è un onore per l'Abruzzo avere Berlusconi tra gli abruzzesi, che almeno si fa vedere che siamo un popolo forte e gentile. Sì. Senti, sai che cosa è successo? L'ONU ha detto che i crimini commessi dal regime di Kim Jong-un sono paragonabili ai nazisti e ai Khmer Rossi. L'ONU, i tuoi amici dell'ONU, hanno detto questo, che i crimini commessi dalla Corea del Nord sono uguali a quelli dei nazisti e dei Khmer Rossi. Sì. Come direbbe Crozza, non credo. Non credi? Non credo. Non credi. Cioè, magari, razzi contro l'ONU. Razzi contro l'ONU. Beh, bellissimo. No, contro l'ONU. No, io sono andato, se ti ricordi, caro Giuseppe, se ti ricordi, io sono andato anche contro Ban Ki-moon. Quando ha detto che questa è una questione per i Marò, è una questione tra l'Italia e l'India. Infatti, sì. Oh, ma noi come Italia paghiamo l'ONU, allora scusate, ma se noi paghiamo quando abbiamo qualche problema, ci deve anche aiutare, se no che l'abbiamo messo a fare il segretario lì? Mi sembra una cosa logica. Se c'era Berlusconi, purtroppo abbiamo avuto gli ultimi tre presidenti del Consiglio che non erano votato dagli italiani. L'ultimo era Berlusconi, non c'è dubbio. E l'ultimo era Berlusconi. E se c'era Berlusconi, i Marò già stava a casa, dopo di qualche settimana magari cercava qualche cosa, ma Berlusconi l'ha già aveva riportato tranquillamente, certo. Era sicuramente, e questi stanno a dormire, ma che, insomma, si vogliono svegliare. Ma scusa un attimo, sto ONU che parla male della Corea, paragonandone ai nazisti, sbaglia tutto. Sicuramente, perché io che ci sono. Tu che conosci la Corea non può essere paragonabile al regime nazista, diciamo. Tu che la conosci bene. Assolutamente no, io perlomeno posso testimoniare che sono andato lì, ho girato tranquillamente, ho visto un popolo che ama l'italiano, ama l'italianità, ama i prodotti italiani, ama la nostra cultura, la nostra lingua. Una delle prime nazioni che loro studiano è l'italiano. E noi dovremmo essere tutti orgogliosi, e meno male che ci sono questi. La prima nazione, devo dire, che è il Giappone, che studia l'italiano. Sì. Senti una cosa, ma in Crimea Putin, tu sei dalla parte di Putin, immagino, no? Ma guarda, lì. Anche lì, se ci fosse Berlusconi, ci fosse se stato Berlusconi, già aveva risolto tutto il problema con Putin. Ma lo dico io, te lo dico da amico. Cioè, in che modo l'aveva risolto? Scusa, come l'aveva risolto? Scusa. Guarda, sicuramente come Berlusconi aveva risolto il problema del gas quando in Polonia e cose, si stavano a morire di freddo, e una telefonata che ha fatto a Putin ha riaperto subito il gas perché stavano a morire di freddo, anche lì aveva risolto il problema appunto di questa separazione, sì o no, e si metteva a posto tutto tranquillamente. Berlusconi l'aveva già fatto. Io credo che lì bisogna dare il Nobel della pace, bisogna darlo a Berlusconi. Ma perché Nobel della pace adesso a Berlusconi? Ma Berlusconi è fuori da, cioè, Nobel per la pace, Putin al Papa, hanno proposto Putin, vabbè, insomma, una cosa un po' temeraria, il Papa, cioè più del Papa lo merita Berlusconi. Ma scusa, ma il Papa è il Papa. Il Papa è il Papa, vabbè, d'accordo. Però Berlusconi è Berlusconi. Un Nobel della pace al Papa, mi sembra, lui è per forza che deve fare la pace per tutto il mondo, il Papa ci pagherebbe altro. Però se si dà a Berlusconi o si dà a Putin, o si dà a Putin, gente che veramente stanno lottando per la pace nel mondo, eccetera, eccetera, sicuramente più... significativo. Più significativo. Il Papa è il Papa. Per forza. Non Papa. C'è notizia. Comunque sai, no? Che stanno facendo? Non è, che, no, non è che il Papa potrebbe essere, Papa Francesco potrebbe essere contro la pace. Ci mancherebbe altro. No, per carità. Però Berlusconi vale come il Papa, diciamo, a livello di... A livello di immagine lui vale, diciamo, per il premio Nobel della pace, perché ha cercato in tutti i modi veramente di tenere le Nazioni Unite e di non specialmente il numero uno, uno dei numeri uno al mondo come Putin che lo tiene tranquillamente come amico e come fedele amico, fedelissimo amico. E questo purtroppo molti sono gelosi di questa amicizia, gli americani sono. Senti, ma Cottarelli, lo conosci uno che si chiama Cottarelli? No. Sì. Che fa? Io non l'ho visto mai. So che è stato anche in questi giorni in commissione, ma io non l'ho visto. La commissione estera non è venuto. Ah. No. Ma che bene a fare, infatti, comunque che bene a fare, sì. deve fare sta spending review, lo sai, no? Ma io l'altra volta, quando sono andato dagli amici della pecora, mi ha detto la Job Tag, ma dico, io li potevo pure dire Arbeitspakete, no? Essere bandiera, Arbeit è lavoro, un pacchetto di lavoro. Sì. Ma scusate, ma perché noi dobbiamo imbrogliare gli italiani a dirgli tutte queste parole in inglese? Noi abbiamo la nostra lingua che è amata in tutto il mondo e dobbiamo non far capire ai nostri italiani, perché i giovani magari l'inglese lo sanno. Sì, certo. Però molti anziani, quando mai l'ha sentito? Non le dobbiamo dire, dopo gli dobbiamo spiegare, ma questa non ha capito niente. Io per quello ho anche la barba, ma che c'è la cosa? Per pigliarlo anche in giro, tra virgolette, in giro, perché mi sembrava una cosa. A dire tutte queste cose in inglese. Senti, tutte queste cose qui noi lo dobbiamo dire con la nostra amata lingua specialmente Renzi che viene dalla Toscana, dove italiano eccetera l'italiano e questi qua vengono con l'inglese. Parliamo l'italiano. Ma tu lo dici pure, parliamo l'italiano. Ma se no parliamo l'abruzzese, che è meglio, si capisce meglio. Ti ricordi, perché noi dobbiamo valutarci. Io farei un'intervista tutti in abruzzese, lo sai? Tutti in abruzzese. Tutto in abruzzese. Anche dobbiamo essere orgogliosi del nostro dialetto. Sono orgoglioso, ne parlo volentieri. Ma Berlusconi sembra essere sequestrato dalla sua fidanzata, lo sai? Dicono che è sequestrato dalla Pascale. No. Sì, sarà sì. Come direbbe Crozza, non credo. Lui quando non credo. La Francesca Pascale è una bravissima ragazza. Bravissima, assolutamente. Bravissima. Non credo che sequestra. Ma no. Senti, un'ultima cosa. C'è un appello da fare, perché noi abbiamo fatto una specie di concorso. Trova un fidanzato a Lara Comi. La tua amica Lara Comi, che è single da 4 anni che mi ha detto di cercare un fidanzato. Stiamo facendo un grande concorso. Vuoi fare un appello pure tu? Ma sicuramente io la mia amica Lara, a parte che l'ho invitato in Abruzzo perché ci sono tanti bei giovanotti che lo amano, lo vorrebbero, e sicuramente tra questi bei giovanotti abruzzesi sicuramente troverà l'anima gemella. Grazie Antonio, a presto. Ciao, ti aspetto. Com'è la storia? Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. A stanzare con l'odioso insetto. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Perché affonda il becco su di me. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisone. Pure lo spray a di stanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. Eccoci qui, Enzo da Teramo. Enzo. Giuseppe. Dimmi. Non sa venuccia, santa quante terme per piena linea, chi fa bruttese, Giuseppe. Cioè, che hai detto, Enzo? Cioè, quanto tempo ci vuole per prendere la linea? Da mo' che ti chiamo, Giuseppe, per esternare le nostre preoccupazioni in Italia, no? Esterna queste preoccupazioni, avanti, su. Io io sono autotrasportatore e il mio amico Raniero vorremmo tutte le sere razzi, tutte le sere razzi, a me lo dici, io vorrei forte. Tutte le sere puttane, razzi, prostitute, puttane, però, c'avevo un frocio 20 minuti fa, l'ho detto alla signorina, passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lampeggio e te lo passo. Beh, però grandissimo, dov'era questo, dov'era? Sulla 14, caro Giuseppe. Ma che c'era? La solita piazzola, la solita cosa, che è? Sì, allora, sulla 14 sono infinite le piazzole. Cominciamo da Roseto per finire al parcheggio di Pescara, quello di Francavilla, quello di Vasto, come li vuoi proprio. Però non è che disturbano. Ti fanno le frecce, ti fanno i fari, gli stop ti sorpassano, se vuoi fermarti ti fermi. Vai con loro se ci vuoi andare. Cioè, non è una cosa drammatica, come dicono, no? No, dai, se ti fermi in piazzola per cambiare il disco, per fare una pisciata, ti vengono lì, ti dicono se ti vuoi divertire un po', però dai, è gente che purtroppo anche loro devono lavorare, visto la precarietà dell'Italia. Devono lavorare, beh, alcuni avranno un lavoro, lo faranno per divertimento, devono lavorare, che se offrono soldi non è che lavorano in questo caso, si vogliono solo divertire. Li devi pagare, non è che te lo fanno gratis. Beh, alcuni dicono al contrario, scusami. No. Beh, no, adesso chiariamo questa cosa. Enzo, scusami un attimo, qui la cosa è esattamente il contrario, cioè questi offrono denaro, altrimenti chi ce l'ha, scusa? No. Le versioni, si prostituiscono, Giuseppe, ci sono ragazzi che si prostituiscono. Beh, allora c'è un mercato tra i camionisti, scusami. Beh, certo, che ti dice il camionista che paga 20 euro, 30 euro un pompino, chiamiamolo così? Beh, ragazzi, chiamiamolo, insomma, l'hai chiamato, insomma, chiamiamolo così, l'hai chiamato poi, esattamente come l'ha chiamato, chiamiamolo così. Chiamiamolo pompino, io non so come si dice a Roma. No, si dice uguale. Bisognerebbe chiamare Floriani a farci dire come li chiama lui. Beh, no? Adesso dai, non esagerare, Enzo, dai. Come si fa a non farsi fare un pompino dalla Mussolini con quelle No. No, fermo Enzo, adesso cosa c'entra questo? Io ho chiamato anche per quel problema lì, dove un grande manager come lui va con una minorenne quando ha una bellissima moglie. Ma adesso non entriamo nella testa del signor Floriani, perché è andato con quelle due, lui dice che non sapeva che fossero minorenni. C'hai i quattrini, pensano di comprare tutto sti signori, capito, caro Giuseppe? Vabbè, tu, ma sono cose che esistono. Ma io ti sto facendo parlare pure troppo, Enzo. Sì. Noi siamo il popolo, quelli che tirano avanti la baracca, l'Italia. Quello è vero. Fai i programmi sugli autisti, i trasportatori seri che lavorano notte e giorno e si spaccano il culo per 4 soldi. Noi siamo quelli che movimenta l'Italia e ci prendono per i fondelli dalla mattina. Questo è vero. Siamo che non rinnovano il nostro contratto. Vabbè, adesso non andiamo sul contratto. No, vabbè. Caro Giuseppe, io ho l'onore di parlare con te. Sono emozionato come quando mi sono sposato con la mia dolce moglie. Non mi sembri emozionato. Sì, sono emozionato. Ho la pelle arrufata. Per l'onore di parlare con te. Fai un appello ai tuoi colleghi, chiamate la Zanzara, seguite la Zanzara, fai un grande appello. Tutti, a tutti i camionisti in collegamento sul canale 5, chiamate la Zanzara, Radio 24, il mitico Giuseppe Cruciani e l'amico Parenzo, che a me mi è anche simpatico. A tutti i colleghi, sintonizzatevi su Radio 24. Ciao amico, ciao, a presto, ciao. Ciao. Giuseppe, Angelo Milano, ciao, Angelo Milano. Sì, buonasera, io sono un conoscente senatore Razzi, sì. Ma io volevo segnalare la grande ironia che ha il senatore, però certo. Nessuno la nega, caro amico, ma io sono il primo tifoso di Razzi, il primo tifoso. Allora deve andare in Corea per questa partita che ha organizzato tra i parlamentari italiani e tutti gli schieramenti. Vediamo, quando verrà organizzata cercheremo di essere presenti. Ma lei come fa a sapere tutte queste cose? È un collaboratore di Razzi? No, lo conosco perché sono abruzzese anch'io. È abruzzese, lo sento l'accento abruzzese. Lo sento l'accento abruzzese, caro Angelo. Anche queste magliette che ha fatto, è un grande. Siamo al top. Sicuramente la persona più elegante del Parlamento. Ma adesso elegante. È la persona più elegante, non lo so se è più elegante. Elegantissima. Va bene, comunque, Angelo. Da apprezzare anche la storia. Continua la nostra saga. Lara Comi, cerchiamo un fidanzato. Oh mamma, dici, volta fidanzato. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la come, da quanto è single? Da 4 anni. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show. Di Pupa Dogo, cristallo e vino, dolce vita però. Spesso stile Peppino e Totò. miei ex dicono che sono un bastardo bugiardo, ma io gioco d'azzardo. Il primo che si candida questa sera è Gianpietro, Verona, 36 anni. La Zanzara è radio24.it. Mandate i vostri curricula insieme ai indirizzi, numeri di telefono e tutto, perché tra questi spunterà fuori sicuramente l'anima gemella, una persona adatta al nostro europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi. Sì, ciao, mi chiamo Gianpietro, ho 36 anni, ho attività, autoscuole e pratiche auto. E niente, Lara, tutte le volte che ti vedo, al di là di tutto, io sono dal veronese, ma ti vedo in televisione, vedo una bella donna, ma a volte non ti ho sentito parlare, ti guardavo soltanto da occhioni bellissimi ma tristi. Io sono un tipo rarita, amo immaginare, però insomma, quando hai detto che Berlusconi poteva risolvere il problema con Putin, ho detto, ma tu non hai bisogno di due putanieri, tu hai bisogno di un uomo che si svegli la mattina e si addormenti la sera pensando alla tua felicità. Io mi propongo per te, sono sincero. Beh, questo si vuole dedicare totalmente a Lara Comi, 36 anni, caro amico, butta male, autoscuole, vabbè, autoscuole può andare, no, Parenzo, che dici? Scuola veramente, non per la Comi. Oh, ma vuoi parlare o no? Oppure stai zitto? Ho detto che va bene per me. Ho capito, ma se non parli nessuno te capisce qua, amico mio. Dario vive in Olanda, 36 anni. Ciao Lara, sono Dario, ho 36 anni, vivo in Olanda, lavoro modestamente, campo anche abbastanza bene, quindi non sarebbe una relazione di solo interesse. Lavoro per un'azienda taiwanese, faccio praticamente il mercato italiano, mi sembra una persona abbastanza intelligente, quindi perché no, potrei essere io che do l'opportunità a te di incontrarmi, quindi ti manderò la richiesta di amicizia su Facebook, così vediamo se da cosa nasce cosa. Eventualmente, mal che vada, puoi sempre venire per qualche weekend in Olanda, insomma, dai, per la primavera qua non è per niente male. Ti saluto, ciao. Scusami, amico. Beh, mio, però. È serio? Sì, ho capito, questo qua. Questa l'ha presa troppo sul serio, forse. Ma sì, ma vieni qualche weekend, oh, ma di che stava a parlare? Cioè, non è che uno viene per i weekend in Olanda così da uno. Tu è stato gentile, ti chiedo l'amicizia su Facebook, su. Cioè, almeno un minimo. Ma chi, ma perché uno dovrebbe chiedere non l'amicizia greve su Facebook? Non come altri sono un po' ma più. Ma quale che nessuno greve qua? Qua. Beh, c'è qualcuno. Un cinquantenne che mi sembra più adatto, è un assicuratore, Carlo. Buongiorno Lara Comi, vorrei fidanzarmi con te, perché sono un bell'uomo, 50 anni, assicuratore, chiamo da Firenze, ho un'ottima posizione finanziaria, economica e patrimoniale, e sei una donna bellissima, sono un uomo bellissimo e l'impegno che mi prendo è talmente importante che vorrei sapere cosa è possibile fare. Un assicuratore di Firenze, questo un impegno importante. Ma non vuole nulla lei, perché che impegno con chi lo no, prende? No, si vuole fidanzare, che c'entra? Questo si vuole prendere un impegno. Importante. Vabbè, è una persona ma seria. Se uno ha 50 anni non ha ancora trovato nessuno, ma qualche domanda possiamo farcela? Ma no, perché? Magari si è fidanzato e adesso ma invece. Ma uno che ha 50 anni chiama la radio per fidanzarsi con la Lara Comi, che ha visto in televisione, amico mio, fammi dire, cioè, qualche rotella non ha posto, ce l'ha. No, mi rifiuto di pensarla così. Ma è una persona serissima. E chiudiamo con un consigliere del Partito Democratico di Roma. Lo sai che ci hanno mandato curricula anche un sacco di consiglieri del Partito Democratico, i politici del di Partito Sella, Democratico? No, no, del Partito Democratico. Senti, questo di 23 anni mi sembra un po' giovane, amico mio. Comunque, Livio. Ciao, sono Livio, sono un consigliere municipale del PD, quindi siamo avversari politici. Sono studente di scienze politiche all'università. Ho sempre avuto un debole per te, seppur da una diversità di posizioni politiche, quindi perché no, mi candido ufficialmente a questo nuovo concorso di due mattacchioni della Zanzara. Va bene, torniamo tra un attimo, prosegue il nostro contest, troveremo un fidanzato a Lara Comi. Scrivete la Zanzara è radio24.it. Sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la pronto? Sentiamo. Ci sente? No. Grazie, un culo. Ah, gratissima. Come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa. Poi ha chiesto scusa, Servillo. Fabio da Parma, buonasera. Intanto c'è la Guardia di Finanza in subbuglio, caro Parenzo, perché oggi al Senato, sì, Cottarelli, che è il commissario che sta riorganizzando la spesa pubblica, una specie di Cerbero, almeno così sembra. Sembrava che dormisse con Letta, adesso con Renzi improvvisamente si è svegliato. Comunque, perché la Guardia di Finanza ha detto deve avere un reparto antisommossa, visto che è una polizia finanziaria? Questi sono i casi in cui intervenire. Apriti cielo, sta succedendo l'inferno, vogliono sopprimere, certo, i reparti antisommossa della Guardia di Finanza. C'ha ragione, e tutti a difendere la Guardia di Finanza. Io manco sapevo che ci avesse il reparto antisommossa. Tu non sai niente, figuriamoci. Perché Fabio da Parma. Perché tu sai. Sì, assolutamente che... sì. Sapevo che avevano... la Polizia di Stato ha un reparto. Hanno tutti un reparto antisommossa. La Guardia di Finanza. La cosa fondamentale è che abbiamo troppi corpi di polizia. Beh, oh, questo è evidente. Troppi, certo, corpi di polizia. Ma c'era stato un referendum radicale. Bisogna riorganizzarli. Fabio da Parma, ma chi se ne fotte del referendum radicale? Roba vecchia, passata. Fabio da Parma. Sono anni che se ne parla di Fabio da Parma. Pronto? Dimmi. Uè, ciao Giuseppe, senti, ti volevo dire, se voi andate a guardare le registrazioni della dottoressa onorevole Mussolini, sì, tu gli hai fatto una domanda per quanto riguardava il sesso, sì, e lei prendeva le distanze, diceva sai no, a me non mi interessa più niente, io sono un po' fuori. Vabbè, questo che c'entra? Come che c'entra? E volevo vedere te se hai risposato con Alessandra Mussolini, che c'hai una moglie che non gliene fregava niente del sesso, se non andavi a mignotte. Te metti addirittura la maglietta dei razzi là per farti una scopata. Scusa. Ma che c'entra questo, scusa? Questo è una cosa che ho detto a Razzi, non l'ho ancora fatto, scusami. Beh, Fabio. Ma chiede una pasticca di Viagra che fa più effetto, no? Ma adesso, ma la gente prende per vero tutto quel che posso dici, scegliere tra mettermi una maglietta di Razzi o prendermi una pillola di Viagra o no? Scusami Fabio, abbia pazienza. Se vede che ci ha provato con Viagra non ha funzionato, mo si fa l'ultimo tentativo e provi la maglietta di Renzi. Di Razzi non di Renzi. No, però Fabio, volevo dire, no, sì, ma ho capito, no, ma adesso non me lo ricordo questo passaggio. Adesso lo vado. Allora, se voi andate a guardare, cioè tu gli fai proprio una domanda per quanto riguarda il sesso, lei col modo snob che c'ha, con quella no, ma io sai no, ormai io non mi interessa più niente, io ormai ho raggiunto la pace di Sensi. Ma un marito che va a casa e sente una moglie che dice così, ma se scopa pure la Filippina dei 70 anni, non è solo la minorenne, scusa. Solo questo ti volevo dire. Solo questo. Beh, grazie Fabio. Io lo capisco, no? Lo capisco per quanto riguarda quel discorso. Poi ha sbagliato, è andato con la minorenne, lei aveva ragione, che dice che non c'aveva l'età, non ha capito questo e quest'altro. Ma mettiamoci nei panni di quel poro Cristo che andava a casa, che trovava, che ma trovava. Ma sappiamo che è così, che faceva solo i pisellini, ma il pisello sonno lo prendeva mai, insomma, dai. Lello da Napoli, dai Fabio, su non esagerare, Lello da Napoli. Addio, Lello. Pronto, mi senti Giuseppe? Sì, ti sento, dimmi. Ma cioè stasera mi hai proprio sconvolto. Che è successo? Mi ha fatto sentire a chilo Razzi, quando mi fai sentire a Razzi mi fai proprio una... Sono il mal di pancia. In che senso? Non si può. Voi che siamo alla frutta in Italia, però qua siamo oltre la frutta, siamo al gelato, al... Vabbè, ma perché? Parla... Intrugi, proprio. Perché? Intrugi. Perché? Intrugi come vicino in Abruzzo, allora. Devo parlare per questo pecoraro che hai fatto parlare prima. Il pecoraro è un senatore della Repubblica, amico mio. Questo è il guaio, noi abbiamo questi senatori della Repubblica, questo è il guaio, capito qual è il guaio? Ho capito bene. E tu che lecchi intorno, insomma, capito no? Lecco e controllo. Si leccate, un po' di destra, un po' a cuscino, un po' attorno a Berlusconi, un po' attorno a Razzi, che fai, che faresti se Berlusconi così, che faresti tu, che farebbe quello, che farebbe hai visto altro? Che bella leccata che ho dato a Razzi, hai visto? Sì, ma gliele dai spesso, capito. Aspetta, adesso cerchiamo di collegarci con una persona che sembra che sta tornando sulla cresta dell'onda in politica. Un attimo, Lello, un attimo. Ma chi è? Aspetta un attimo, aspetta, ti faccio sentire, aspetta. Io avevo un grande stabile. Santa. Professor Tremonti? Sì. Sono Cruciani da Zanzara insieme a Parenzo. Salve, professore. Ecco, Ciani, quando la sento mi preoccupo sempre, vista la vostra notoria tracotanza. No, vabbè, professor Tremonti, adesso non che c'entra la tracotanza. Ho letto da qualche parte che in una cena insieme a Bossi, Berlusconi le avrebbe proposto di candidarsi di nuovo alle elezioni europee per il, nella circoscrizione nord-est come capolista addirittura, è vero o no? Guardi, non ho alcuna reticenza nel risponderle che in effetti mi è stata proposta la candidatura a quale capolista, come dice lei, nel nord-est per Forza Italia le prossime europee. Ah, dunque lei conferma questa cosa, ma non vi eravate lasciati bene, diciamo, no? Vabbè, lei lo sa che gli scenari politici cambiano, insieme a Berlusconi abbiamo vissuto un'epoca felice della politica e dell'economia italiana. Senta, ma Bossi che diceva? Era lì Bossi presente in questa cena, che diceva Bossi? Sì, c'era Bossi, in effetti. Peraltro non abbiamo mai interrotto i nostri rapporti, ci siamo trovati recentemente anche alla sagra della zucca di Pecorara, che pure lei sa essere un momento fondamentale della vita politica padana. Beh, momento fondamentale adesso. Scusi, ma lei che ci va, meno, che ci va a fare in Europa? Scusi, Tremonti, che ci va a fare in Europa? Che se... Guardi, questo suo tono non mi piace. Che lei è già ci senatore, che ci vado a fare? Lei, Cruciani, ha una visione politica occhiuta e retro, tipica di quel giornalismo che ha contribuito a portare nel baratro il paese. Ma guardi, non mi pare proprio. Cruciani, non ci può essere una politica italiana diversa da quella europea e viceversa. Vabbè, sentiamo... In Europa il mio apporto potrebbe risultare decisivo. Ma è decisivo. Ma Bossi è d'accordo con questa cosa? Bossi? Ma lei è d'accordo sulla candidatura di Tremonti? Ho parlato con Giulio l'altro giorno. Sì. Ciao Umberto. Ciao, della Crimea. Abbiamo parlato della secessione. Siete che d'accordo? C'è in atto, ovviamente. In Veneto. È d'accordo, abbiamo lei? Parlato di Renzo e abbiamo detto che potrebbe essere un ticket nuovo in Europa. Qual è il ticket? Tremonti Renzo potrebbe essere un ticket nei Santini. Ma non c'è i Santini. Cioè, lei ci sta dicendo che Renzo Bossi può. Vabbè, un attimo. Può essere anche in Crimea, abbiamo parlato anche della Crimea. Sì, è d'accordo con l'indipendenza della Crimea, ovviamente. No, non ho capito neanche dove è sulla cartina, non ho visto, ma dico, cioè, se uno vuole l'indipendenza, per me è sempre libera la Padania, libera la Crimea. Uno alza una bandiera e dice che vuole la libertà, per me va a far culo qualsiasi posto sia, anche se ad esempio tu dici Grattosoglio libero, io dico vabbè, Gorgonzola, Cascina Coppa, lei... tutte le fermate della metropolitana, linea verde di Milano, va tutte, bene, abbiamo Santa, capito tutte, Renzo Bossi, dunque Famagosta, vabbè, tutte le fermate libere della metro. Si capisce più niente, salutiamo sia Tremonti che Bossi. Le zanzare di casa. Beh, sarebbe ticket Tremonti Bossi. Ma c'è questo inno per il referendum del Veneto? C'è o non c'è? Fatemelo sentire un po'. L'inno del referendum del Veneto. Sì, una specie di inno. Perché tu sei contrario da Veneto a questa roba qua. Io sai che sto cominciando a essere favorevolissimo a queste cose. Non avevo dubbio. Favorevolissimo. Non avevo dubbio. Ma scusa, se lo Stato non funziona, se la burocrazia ci impedisce di campare, se le tasse sono quello che sono, ma uno perché non dovrebbe pensare a un certo punto ai cazzi propri, scusa, a fare restare le tasse nel posto in cui lavora? Perché non dovrebbe pensare, se non ci sono vie d'uscita, se lo Stato si è dimostrato un fallimento? Solo l'indipendenza può far crescere la nostra regione. Se anche tu vuoi che il Veneto diventi una Repubblica Federale indipendente e sovrana, dal 16 al 21 marzo vota online il referendum di indipendenza del Veneto. Collegati al sito www.plebiscito.eu oppure chiamalo 0423 40 22 22 per avere informazioni e per ricevere il tuo codice di voto. Clicca su www.plebiscito.eu. Abbiamo con noi Gianluca Busato, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come va? Come sta? Bene, direi molto molto bene. Senta, come siamo arrivati? 800.000, 900.000, quasi un milione, quanto siamo? Beh, le ultime dati ufficiali sono sulla soglia del milione, poco sopra i 950.000 voti. Parenzo, ma perché uno non dovrebbe tenere conto di 950.000 persone che vanno a cliccare, vanno in qualche gazzetta? No, perché cliccare. Tu sei sempre scettico, pigli per il culo l'indipendenza del Veneto. No, io sono da Veneto, sono un po' scettico. Sei contro l'indipendenza del Veneto? Beh sì, contro l'indipendenza. Contro l'indipendenza del Veneto. Cosa vuole dire da Veneto a Veneto, Busato a Parenzo? Beh, che fa bene, dovrebbe votare no al referendum di indipendenza del Veneto per esercitare il suo diritto dovere di cittadino. Però lui dice che è una buffonata, che non conta nulla questo referendum. Cioè, non succede niente, se vince il sì o vince il no non cambia niente, cioè non è un referendum vero. Beh, questo lo dice lei, caro Parenzo. Comunque credo che sia doveroso per ognuno dare un'educazione, anche specie se si parla in una radio, e dare un'indicazione di partecipazione democratica laddove c'è una consultazione. Vabbè, Busato, questo lo diamo, però sì, che cosa succede dopo? Cioè, questo è il punto. Beh, dipende dai risultati, ovviamente. Cioè, oltre una certa cifra, che succede? Beh, cioè, se domenica vanno a votare, che ne so, quando è che finisce? Il 21? Venerdì alle 18. Allora, se venerdì alle 18 votano a favore dell'indipendenza del Veneto, quante persone? Beh, se c'è una acclarata volontà del popolo veneto, della maggioranza che vince le elezioni, se c'è quindi una sostanziosa partecipazione, tipo quanto? A quel punto, tipo quanto? Beh, la maggioranza che vince e con il 50% più uno che... No, ma la partecipazione qua, tanto quelli che hanno votato e hanno partecipato... Basta la maggioranza. Sì, d'accordo, ma quante persone si aspetta che votino? Guardi, il corpo elettorale è di 3.700.000 e qualcosa mila. Per cui... Se voto un milione e mezzo è un trionfo, se voto un milione e mezzo è un trionfo. Beh, per noi è già un trionfo adesso, ovviamente. Senta, ma lei come si rimmagina l'indipendenza del Veneto? Mettiamo che tutto vada, no? Ci sia un processo che porta all'indipendenza, no? Cioè, non so come poi, perché mi pare difficile. Certo. A un certo punto interverranno i carabinieri. Per Parenzo siamo i cartoni animati. Non lo so chi interverrà, io ho presente di quello che è successo in tantissimi paesi che hanno ottenuto l'indipendenza in modo democratico, pacifico. Tipo? Beh, guardi, ce ne sono tanti. Montenegro, pensiamo qui pochi anni fa, la Groenlandia. La guerra, però. La Groenlandia. Ma guardi, sono tantissimi. La Norvegia, ma voi lo sapete, vero, che la Norvegia è diventata... Beh, ma questo diversi anni fa, Sì, ma voi dite che avrete 20 miliardi in più, 500 euro, l'ho letto da qualche parte, in busta paga per ogni... Beh, all'inizio, perché poi le cose migliorano di molto. Ma lei sa però all'inizio. Che... Ma non scusi, è che avere soldi in più cambia più di tanto. Guardi regioni autonome come il Trentino Alto Adige e il Sul Tirol, no? Non è che lì gli scandali diminuiscono, anche ma lì soldi gli scandali? No, ma i soldi li buttano anche lì, non è tutto rose e fiori. Sì, ha ragione, i soldi rimangono qua. Ha ragione, davvero. C'è gente che si compra i vibratori nella regione a sud speciale, che i soldi che c'hanno. C'entra, perché non è vero che più autonomia è sinonimo di più ricchezza. Non è detto che sia così. Ma al limite non è. Ha ragione da vendere, tant'è vero che tutti noi diciamo che non vogliamo l'indipendenza per fare una piccola Italia, ma noi vogliamo l'indipendenza per creare un sistema migliore. E se proprio dobbiamo guardare, non guardiamo certo all'Italia, ma guardiamo alla Svizzera. Scusi un attimo, ma com'è che uno entra dentro a un certo punto nel Veneto? Com'è che si rende conto di essere in Veneto? Beh, guardi, probabilmente riceve un SMS sul suo cellulare che gli dice benvenuto in Vodafone Veneto. Come dipende dall'operatore, Veneto. Ovviamente. Cioè Vodafone Veneto, team Veneto, eccetera. Se lei entra in Austria, ma l'esercito, ma in Austria, in Veneto e in Italia ancora, ma non ho capito. Ma lei prevede che ci sia un esercito? Lei prevede ci sia un esercito? Se lei entra in Austria, Cruciani, cosa succede? Ma sì, d'accordo, però l'Austria è un paese, ha ragione. Una cosa succede quando lei entra dall'Italia al Veneto. Ci sarà un casello autostradale dalla parte italiana, perché lei ovviamente in Italia paga l'autostrada, mentre in Veneto le autostrade saranno gratis. Ma come autostrade gratis? Ma lei immagina una specie di Bengodi, sai, su un Bengodi. Questo non è credibile, il Bengodi. Uno può anche aspirare all'indipendenza, ma non è che l'indipendenza è il Bengodi. Vabbè, ne parliamo nei prossimi giorni, Ci sentiamo domani 18:30. A tutti i camionisti in collegamento sul canale 5, chiamate la Zanzara, Radio 24. Il mitico Giuseppe Cruciani e l'amico Parenzo, che a me mi è anche simpatico. A tutti i colleghi, sintonizzatevi su Radio 24.